difficile, lo so, però è network. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Programma col cuore di un bambino e il cammino di Gigi D'Agostino. Musica per me più lenta, che marcia, che spera, veloce, poi più lenta, violenta, sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino, di Gigi D'Agostino. Ma che è? Il cammino di Gigi D'Agostino. Listen to it twice again. Don't ever worry, cause she got no boo. You got the freedom if you're room alone. I can leave whatever weird place and move around among the seven seas. No one miss me when the sun goes down. And in the morning now we got it down. Capisci un po' sta musica? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non giochiamo. È arrivato il folclorista, eh? Dai un po'. Dai un po'. capì? Eh? M2O, musica allo stato puro, te ripide sicuro. Ci sintoniamo, sintonizziamo nella... nella frequenza capitolina. Bocacci via questo. Sì, sì. We'll be right back.

24 marzo 2006, ore 23, l'Electro Show di Gigi D'Agostino, dal vivo, alla discoteca Nachtschicht Innsbruck, Gravenweg 74, località Innsbruck, Austria. Prende vita. Il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo, frate. Tito? Cielo. Artista? Federico Romanzi. We'll be right back.

dal vivo, domani sera, sabato 25 marzo 2006, ore 23, discoteca Millennium, Geverbe Parkstrasse 22, località Krems, Austria. Krems, Austria. Salotto e io suono alle 18. La camminata quotidiana, insomma. Sì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. So many miles I've traveled all around the world, and I didn't know anything I would do. So many miles I've been about you.